sono cresciuto anche qualche volta litigando, no, con i tifosi. Ah, sì, ma era, sì, litigando proprio dal campo, ma era proprio una questione di cioè come quando sei in famiglia, no? Sì. Il genitore che fa delle note al figlio, il figlio che normalmente risponde. Ecco, era un po' così, perché effettivamente a Firenze dalla tribuna al campo basta uno starnuto, effettivamente lo senti. E lo senti. Perciò io sono cresciuto con questa pressione, se così, ma per me era una cosa normale. E difatti, quando io dico che chi ha vissuto lo stadio di Firenze può girare qualsiasi stadio del mondo, credo di non dire un'eresia, perché c'è sempre questo continuo, no, dialogo fra la tifoseria e il giocatore che è in campo. Perciò, ecco, quello che ha detto l'ascoltatore che vi ha mandato questa mail, effettivamente penso che possa essere sì un aspetto positivo, ma anche un aspetto negativo per chi non è abituato.